Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Tornando in studio, via Zanardi per Radio Città Fujiko al Breakfast Club, l'avvio delle dirette per vigilia di weekend venerdì 12 luglio. È un last minute, pensate, che nasce da Comini Express per la serata di Open Desk. Poco prima dell'inizio del DJ set ho avuto la fortuna di incrociare Roberto Morgantini di Cucine Popolari, che subito ho rapito per alcune informazioni a proposito di un appuntamento tra Italia e Brasile. Mi ha dato una grande disponibilità per quanto riguarda l'anticipazione di questo incontro e quindi l'ho portato in diretta telefonica. Buongiorno Roberto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno al mondo. È un mondo che si incontra in piazza Lucio Dalla tra Italia e Brasile per motivi importanti. Diverse sono le collaborazioni, è una situazione che mette il convivio, la cultura, un aspetto che veramente è un abbraccio tra Italia e Brasile, dove il centro diventa Bologna. Di che si tratta, Roberto? Un abbraccio appunto in questa situazione ormai che per molti hanno fatto il callo, cioè il clima, le alluvioni, 400.000 persone di fatto sono senza casa o comunque in situazioni difficilissime in un paese già provato. E quindi non so, un gesto simbolico di solidarietà, non solo simbolico, credo che sia giusto che parta anche da Bologna. Cioè un abbraccio a chi soffre, a chi di fatto, abbiamo visto le nostre in Italia che cosa ha voluto dire l'alluvione. Ebbene, là ci sono delle persone che vivono più o meno le stesse cose, quindi un aiuto, un momento di per dire ci siamo anche noi, ecco, certo. Non siete completamente dimenticati, saremmo quelli che saremo, però un aiuto ve lo vogliamo dare. Ci siamo, Radio Città Fujiko c'è con questa anticipazione che porta per la giornata di domani, Piazza Lucio Dalla, dalle 20 alle 20:03. E aggiungo anche l'aspetto che con l'emergenza climatica in determinate zone che ne sono particolarmente colpite, questa alluvione che già difficoltà ha avuto con il popolo brasiliano nella situazione che vive nella contemporaneità, nell'attualità, nella politica, oltretutto con l'emergenza climatica e le manifestazioni estreme, porta difficoltà, problematiche, come abbiamo sentito, diversi sono rimasti in condizioni molto molto precarie. Com'è la situazione, Roberto? Preoccupante, continui appelli, i rapporti che abbiamo con il Brasile. Tenete conto che sono delle cucine popolari, in Brasile sono tre cucine popolari dove faremo un gemellaggio, ecco, in sostanza, sì. Con tre cucine italiane, questa di Bologna, quella di Cesena e quella di Cervia. Chiedono aiuto, si guardano in giro e guardano, vedono che, come dire, il mondo non può restare indifferente. Non bisogna mai voltarsi dall'altra parte in queste situazioni, pensare agli altri come se fossimo noi stessi, in sostanza. Quindi è terribile, è terrificante, e quindi ci sarà un intervento, per la serata, ecco, diciamo, ci sarà un cuoco brasiliano, ci saranno i balli brasiliani, musica brasiliana e molte associazioni di Bologna, dei sindacati, alle, sì, associazioni umanitarie, a Piazza Grande, insomma. Sì, ci sono diverse istituzioni che partecipano, dall'AMPI, sì, ai sindacati, esatto, insomma, esatto, qualcosa che è sentito. E per partecipare, sabato 13 luglio ovviamente 2024, Piazza Lucio Dalla dalle 20 alle 23, alcune indicazioni per partecipare a questo incontro? Ecco, presentarsi in Piazza Lucio Dalla, c'è questa buonissima cena, come dire, brasiliana, in solidarietà, una ventina di euro ci cava, ecco, dal pensiero, certo. Però si mangia bene, insomma, si mangia bene, e poi per una buona causa, ecco, certo. Credo che vederci lì, anche un momento, un pensiero anche per collegamenti con il Brasile, diversi interventi, ci avevano promesso un video Zuppi, sì, che era d'accordo con l'iniziativa, e molti altri, ecco. Cucine popolare. Penso che sia una serata interessante cui partecipare sia doveroso. Certo, ecco. Tra cui buona enogastronomia, la tradizione, l'incontro, in questo caso enogastronomica da salvare, da conoscere, cucine per Bologna, per Cervi e per Cesena, che quindi già abbiamo una bella intersezione con Porto Alegre, Santa Maria e Alvorada invece dal Brasile. Esatto. Ci sarà un po' di Italia e un po' di Brasile in tutto ciò, un po' di Emilia Romagna e un po' di Brasile in tutto ciò. E soprattutto persone solidali, persone che appunto non si voltano e non si girano dall'altra parte. Certo. E quindi Questo è importante. Poi motivo di intrattenimento anche con la musica, da quello che ho capito. Chiaro. Spettacolo e cena solidale. Ero Strusiani che condurrà la serata, quindi anche lui impegnatissimo perché Anthony, cioè il gruppo Alzheimer, sì, perché è rimasto sì del gruppo. Bene, l'appuntamento allora è per domani, sabato 13 luglio, ribadisco, dalle 20 alle 23 in piazza Lucio Dalla, Bologna, e non solo, abbraccia il Brasile. Cucine popolari con Roberto Morgantini, che io ringrazio tantissimo per questa piccola ma grande anticipazione, e appuntamento a domani allora, Roberto. Poi noi ci vediamo come in Express comunque. Certo. A domani, grazie. A te, grazie. Ti metto un po' di musica brasiliana per salutarti, ok? Grazie a Roberto Morgantini per questa anticipazione nel last minute di oggi, vigilia di weekend, venerdì 12 luglio. Piazza Lucio Dalla, abbraccia il Brasile alluvionato da Bologna dalle 20 alle 23. Musica, ovviamente l'aspetto gastronomico ci sarà sempre e comunque, collegamenti, testimonianze per le difficoltà che stanno vivendo in emergenza climatica, poi conseguenti alluvioni in zone già di per sé difficilmente che vedono altre problematiche, per cui essere presenti è importante. Dalla Talking Loud, la compilation è brasilica, curata da Gil Peterson. Il brano, se fosse jazz, lo potremmo definire uno standard. Lui è Milton Nascimento e il brano che stiamo ascoltando e sta sfumando è Vera Cruz. Ancora un po' di musica alle 7:56 minuti che ci accompagna alla pubblicità, poi si va in scena sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Ma prima due parole a proposito di collaborazioni importanti e non solo con il Breakfast Club. Una redazione che ha bisogno di voci nuove, una redazione che ha bisogno di collaborazioni che per me sono veramente una linfa vitale per il palinsesto e non solo per la struttura dell'emittente. Sono le voci che arrivano giovani e che quest'anno sono state particolarmente presenti. Saluto Viola Balugani per quanto riguarda la rubrica In Mostra e non solo, Lorenzo Pauri per il Voltiamo Pagina, tuttora in forza con il Moved Groove, Pietro Rossi. Vi ho parlato tanto di Anna Cesari, ora è il momento che lei possa parlare. Finalmente sono anche così un po' emozionato nel presentarle, dare il buongiorno Anna. Buongiorno, benvenuta e grazie. Buongiorno, grazie a te William. Allora, buongiorno agli ascoltatori anche. Agli ascoltatori, tu puoi dare un servizio molto utile, tra un po' c'è la pubblicità fra l'altro. Tu ti muovi in maniera molto attenta, spesso in bicicletta. Il servizio che puoi dare è un infotraffico, com'è la condizione per le strade? Fino ad ora era ottima in bicicletta, se non che appena ti fermi c'è quel sudore. Ah ok, a parte le condizioni che chiaramente ti sovrasta, ma vabbè. Però insomma non ci lamentiamo, è luglio, che dobbiamo fare? E dal punto di vista del traffico però tutto regolare. Tutto regolare, tutto bene. Regolare. Ok, tra poco in scena.